Il nostro non è un regno terreno. Ma voi, avendo sentito dire che aspettiamo un regno, stoltamente credete che alludiamo a un regno terreno, mentre noi parliamo di quello insieme a Dio, come è evidente dal fatto che quando siamo interrogati da voi, confessiamo di essere cristiani, pur sapendo che è stabilita la pena di morte per colui che confessa. Se infatti noi aspettassimo un regno terreno, negheremmo per non essere uccisi e cercheremmo di tenerci nascosti per ottenere le cose che desideriamo. Ma poiché la nostra speranza non è nel presente, non ci preoccupiamo di coloro che ci uccidano, dal momento che morire è comunque necessario. Operiamo per la pace. Siamo vostri collaboratori e alleati per la pace più di tutti gli altri uomini. Riteniamo impossibile che il malvagio o l'avaro o l'impostore o il disonesto sfugga a Dio, ma ciascuno si incammina verso la condanna eterna oppure verso la salvezza secondo il merito delle azioni. Se tutti gli uomini conoscessero queste cose, nessuno, neppure per poco tempo, sceglierebbe ciò che è male, sapendo di andare incontro alla pena eterna nel fuoco. Anzi, in ogni modo si preoccuperebbe di se stesso e si ornerebbe di virtù per conseguire i beni che sono presso Dio e per tenersi lontano dalle pene. Non infatti a causa delle leggi e delle pene da voi stabilite i criminali cercano di nascondersi, ma commettono il male sapendo che è possibile sfuggire a voi che siete uomini. Se avessero imparato e fossero convinti che è impossibile che a Dio sfugga qualcosa, non solo ciò che viene fatto, ma anche ciò che si vuole, sarebbero onesti in tutto a motivo della pena che incombe. Anche voi lo riconoscete. Sembrate però temere che tutti agiscano secondo giustizia, così che voi non avreste più le persone da punire. Questo sarebbe comportamento da carnefici, non da buoni governanti. Siamo convinti però, come abbiamo detto, che tutto ciò è compiuto da spiriti malvagi che pretendono sacrifici e culti da coloro che vivono come esseri privi di ragione. Ma riteniamo che non potete commettere qualcosa di insensato, voi che coltivate la pietà e la filosofia. Ma se voi, al pari delle persone stolte, amate le abitudini al posto della verità, fate ciò che vi è possibile. Ma anche coloro che sono al potere, se amano la gloria anziché la verità, hanno lo stesso potere dei ladri nel deserto. E che non sacrificate sotto buoni auspici lo dimostra il Verbo, di cui, dopo Dio che lo ha generato, sappiamo che non esiste nessun principe più potente e più giusto. Come infatti ci si rifiuta di ricevere in eredità la miseria, i dolori o l'ignominia dei padri, così colui che è intelligente non accetterà quelle cose che il Verbo ha detto di non dovere accettare. Che tutto questo sarebbe accaduto, lo predisse, io dico, il nostro Maestro, Gesù Cristo, il Figlio e l'inviato di Dio Padre e Signore dell'Universo. Da Lui, Cristo, abbiamo ricevuto il nome di cristiani. Per questo abbiamo fede in ciò che da Lui è stato insegnato, poiché, di fatto, si verifica che avvengono tutte quelle cose che, prevedendole, aveva detto che si sarebbero avverate. È opera di Dio parlare prima che qualcosa avvenga e dimostrare che si è avverato così come era stato predetto. Potremmo senz'altro fermarci, senza aggiungere altro, a tutto ciò, poiché crediamo di aver detto cose giuste e vere. Ma poiché riteniamo che non è facile per una mente pervasa dall'ignoranza cambiare opinione in poco tempo, desideriamo aggiungere qualche piccola cosa per convincere coloro che amano la verità, sapendo che non è impossibile fugare l'ignoranza una volta che la verità sia stata presentata. Non siamo atei, ma adoriamo il Creatore del mondo. Quale saggio non ammetterà dunque che noi non siamo atei se adoriamo il Creatore di tutte le cose, affermando, come ci è stato insegnato, che non ha bisogno di sangue, di libagioni e di profumi. Lodandolo per quanto possiamo, con parole di preghiera e di ringraziamento per tutte le cose di cui ci nutriamo, sapendo che il solo onore degno di lui consiste non nel dare alle fiamme ciò che ha creato per il nutrimento, ma usarlo per noi stessi e per i bisognosi. Se rivolgiamo a Lui lodi di ringraziamento e inni per il fatto che esistiamo e per tutte le risorse a beneficio della nostra salute, per la qualità della specie e il mutare delle ragioni, ed eleviamo suppliche per vivere di nuovo nella incorruttibilità grazie alla fede in Lui, dimostreremo che secondo ragione onoriamo Gesù Cristo che è per noi maestro di queste cose e che per questo motivo è stato generato, che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, prefetto in Giudea al tempo dell'imperatore Tiberio. Abbiamo infatti riconosciuto che è figlio di colui che è vero Dio e lo poniamo al secondo posto, mentre al terzo poniamo lo spirito profetico. Su questo punto ci accusano di pazzia, poiché affermiamo di attribuire il secondo posto, subito dopo Dio, immutabile, eterno e creatore di tutte le cose, a un uomo crocifisso, ma essi ignorano il mistero che è in questo e su cui vi esortiamo a riflettere sotto la nostra guida. Seguaci di Dio per mezzo del Figlio. Vi diciamo anzitutto di stare in guardia affinché i demoni, accusati prima da noi, non vi traggano in inganno e non vi dissuadano dall'essere completamente disponibili e dal comprendere ciò che diciamo. Infatti fanno a gara per avere voi come schiavi e servitori e qualche volta attraverso immagini in sogno, qualche altra attraverso raggiri magici, sottomettono tutti coloro che non si preoccupano in nessun modo della propria salvezza. E noi, allo stesso modo, dopo aver creduto nel Verbo, ci teniamo lontani da loro e per mezzo del Figlio siamo seguaci di quell'unico Dio ingenerato. Un tempo, amanti della lussuria, ora siamo desiderosi solo della castità. Dediti un tempo alle arti magiche, siamo consacrati ora al Dio buono e ingenerato, bramosi più di ogni altro dei mezzi per conseguire ricchezze e possedimenti, ora portando in comunità quanto possediamo, lo condividiamo con chi è bisognoso. Ci odiavamo e ci uccidevamo l'uno con l'altro e non facevamo pasti comuni con coloro che non erano della stessa razza a motivo dei costumi. Ora, invece, dopo la manifestazione di Cristo, abbiamo tutti lo stesso genere di vita e preghiamo per i nemici e cerchiamo di persuadere coloro che ingiustamente ci odiano, affinché, vivendo secondo i buoni insegnamenti di Cristo, possano sperare di ottenere insieme a noi la stessa ricompensa da parte di Dio, Signore di tutti. Affinché non vi sembri che stiamo facendo sofistica, riteniamo che sia bene, prima della dimostrazione, ricordare alcuni pochi precetti di Cristo stesso. Sia compito vostro, quali potenti sovrani, indagare se abbiamo imparato e insegnato queste cose secondo verità. I suoi discorsi erano brevi e concisi, non era un sofista, ma potenza di Dio, era la sua parola. Insegnamenti di Cristo. Riguardo alla castità, così disse: se uno guarda una donna per desiderarla, davanti a Dio è già adultero nel suo cuore. E se il tuo occhio destro ti causa scandalo, cavalo. È meglio per te entrare nel regno dei cieli con un solo occhio che essere gettato nel fuoco eterno con due. E chi sposa colei che è stata ripudiata da un altro uomo commette adulterio. E vi sono alcuni che furono evirati dagli uomini. Vi sono altri che nacquero eunuchi, altri ancora che evirarono se stessi per il regno dei cieli, ma non tutti comprendono ciò. Allo stesso modo, coloro che secondo la legge degli uomini vivono in bigamia sono colpevoli davanti al nostro Maestro e anche coloro che guardano una donna per desiderarla. Non solo chi di fatto è adultero viene da lui condannato, ma anche colui che ha il desiderio di commettere adulterio, poiché non solo le azioni sono manifeste a Dio, ma anche le intenzioni. Molti uomini e molte donne, sessantenni e settantenni, vivono nella purezza. Essi, che fin da fanciulli, furono discepoli di Cristo, e posso vantarmi di indicarne alcuni per ogni classe sociale. Che dire dell'innumerevole moltitudine di coloro che dopo aver imparato queste cose si sono allontanati dalla intemperanza. Cristo, infatti, non invitò alla conversione né i giusti né i saggi, ma gli empi, gli intemperanti e gli ingiusti. Così disse: «Non sono venuto a chiamare i giusti alla conversione, ma gli ingiusti». Il Padre Celeste vuole infatti la conversione del peccatore anziché la sua punizione. Sull'amore verso tutti insegnò queste cose: «Se amate coloro che vi amano, che cosa fate di nuovo? Così fanno anche i fornicatori. Io invece vi dico: pregate per i vostri nemici, amate coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono e pregate per coloro che vi oltraggiano». Riguardo al condividere con i bisognosi e al non fare nulla per la gloria, disse: «A tutti coloro che chiedono, date, e non allontanate colui che vuole prendere in prestito. Se infatti prestate a coloro dai quali sperate di ricevere, che cosa fate di nuovo? Questo lo fanno anche i pubblicani. Voi non dovete accumulare tesori per voi su questa terra, dove la tignola e la ruggine distruggono e i ladri sotterrano. Accumulate tesori per voi nei cieli, dove né la tignola né la ruggine distruggono. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo ma perde la sua anima? Che cosa darà in cambio di essa? Accumulate dunque tesori nei cieli, dove né la tignola né la ruggine distruggono. E siate buoni e misericordiosi, come buono e misericordioso è il vostro Padre, e il suo sole fa sorgere sui peccatori, sui giusti e sui malvagi. Non preoccupatevi di che cosa mangerete o di che vestirete. Non siete forse differenti dagli uccelli e dalle belve? Eppure Dio li nutre. Non vi preoccupate dunque di che mangerete e di che vestirete, perché il Padre vostro che è nei cieli sa che avete bisogno di queste cose. Cercate invece il regno dei cieli, e tutte queste cose vi saranno date in più. Dove infatti vi è il tesoro, lì è anche lo spirito dell'uomo. E non fate queste cose per essere ammirati dagli uomini, altrimenti non avrete la ricompensa del Padre vostro che è nei cieli». Riguardo all'essere pazienti e disposti con tutti al servizio e non irascibili, questo è ciò che ha detto: «A chi percuote la tua guancia, offri anche l'altra, e a chi porta via la tua tunica o il mantello, non glielo impedire. Chi si adira è condannato al fuoco. Ognuno che ti costringe a seguirlo per un miglio, seguilo per due. Splendano le vostre opere buone davanti agli uomini, affinché, vedendole, contemplino il Padre vostro che è nei cieli». Non dobbiamo ribellarci. Non vuole che siamo imitatori dei malvagi, ma esorta a dissuadere tutti dalla vergogna e dal desiderio di male per mezzo della pazienza e della dolcezza. Questo possiamo dimostrare grazie alle molte persone che hanno vissuto in mezzo a voi. Da violenti e tiranni quali erano, si trasformarono, essendo rimasti conquistati dopo aver osservato la costanza di vita dei vicini o dopo aver riflettuto sulla straordinaria pazienza dei compagni di viaggio defraudati o dopo aver sperimentato il comportamento di coloro con i quali condividevano le occupazioni. Riguardo poi al non giurare mai e dire sempre la verità, così ci ha comandato: «Non giurate mai. Il vostro sì sia sì e il no sia no. Ciò che è in più viene dal male». Poiché bisogna adorare un Dio solo, così ci persuase dicendo: «Ecco il più grande comandamento: amerai il Signore Dio tuo e con tutto il tuo cuore e con tutta la tua forza servirai Lui soltanto, il Signore Dio che ti ha creato». Essendo venuto da Lui un tale che gli aveva detto «Buon maestro», egli rispose dicendo: «Nessuno è buono all'infuori di Dio solo che ha creato tutte le cose». Coloro che non conformano la propria vita a ciò che ha insegnato non si dovrebbero riconoscere come cristiani, anche se pronunciano a parole i precetti di Cristo. Disse infatti che si sarebbero salvati non coloro che parlano soltanto, ma coloro che compiono opere. Disse infatti così: «Non chi dice a me, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Infatti, chi ascolta me e fa ciò che io dico, ascolta colui che ha mandato me. Molti mi diranno: Signore, Signore, non mangiammo, bevemmo e operammo prodigi nel tuo nome? E io dirò loro: allontanatevi da me, operatori di iniquità. Allora ci sarà pianto e stridore di denti, quando i giusti risplenderanno come il sole, mentre gli ingiusti saranno gettati nel fuoco eterno. Molti verranno nel mio nome indossando peli di pecora, ma nel loro intimo come lupi rapaci. Dalle loro opere li riconoscerete. Ogni albero che non produce frutti buoni viene abbattuto ed è gettato nel fuoco. Gli chiediamo di punire coloro che non vivono secondo i progetti di lui e che soltanto a parole dicono di essere cristiani. Adoriamo Dio e riconosciamo voi principi degli uomini. In ogni luogo e per ogni cosa cerchiamo di pagare tributi e tassi ai vostri esattori, come da lui ci è stato insegnato. In quel tempo, infatti, alcuni, avvicinatosi, lo interrogavano se bisognasse pagare i tributi a Cesare. Rispose: «Ditemi, di chi la moneta reca l'immagine?» Quelli dissero: «Di Cesare». E di nuovo replicò loro: «Date dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Noi quindi adoriamo un solo Dio, mentre nelle altre cose, con entusiasmo, prestiamo servizio a voi, riconoscendovi sovrani e principi degli uomini, e pregando che sia trovata in voi una mente saggia insieme al potere imperiale. Se però non tenete in nessun conto il fatto che preghiamo e che tutto compiamo alla luce del sole, non ne saremo danneggiati in nulla, perché abbiamo fede. Piuttosto siamo convinti che ciascuno pagherà la pena nel fuoco eterno, secondo il merito delle azioni, e analogamente renderà ragione di quelle facoltà che ha ricevuto da Dio, come Cristo dichiarò dicendo: «A colui al quale Dio ha donato di più da lui chiederà».